direttamente dal laboratorio musicale di Funky Man per Corte Sicula Records. 2009, il progetto Al Caruso, Pietino, una nuova era, Soul Sai. Come ho già detto, lei contorce questo mondo e la mia mente mi trascina nel silenzio quando la compongo. Sì. Affronto ogni sconto di giustizia nel mio conto e reso conto, lo trascrivo nelle note come acconto. Ti metto accanto questi giochi di parole, sì, ne faccio un bando, mi escono da sole portandomi altrove. Soffia l'anima in un nuovo vento tra il rumore di quest'era troppo indifferente per l'amore. Certe ore le trascorre esanime pensando che le lacrime in un mondo caotico stanno evaporando. Accanto un sogno infranto perché reso inutile a parole scritte su fogli volanti per descrivere che la sicurezza arriva sempre se la chiamo, ma l'insicurezza arriva prima che se noi non la cerchiamo. Pronti andiamo incontro al tempo, sto finendo di pensare ancora, la mia mano è lì che sta scrivendo. Attento, io non credo che ti stai illudendo, sto solo dicendo, faccio tutto questo sì, ma con sentimento. Non dico come tutti che è una via d'uscita, per uscire da cosa è lei che è entrata nella mia vita. Dica pure signorita, il giorno che mi invita resta lì tra la speranza che si tiene con le dita. In un'intimità contrita resto saldo mentre scendo in scena, ripercorrendo la risarita. Questa è la mia musica, questa è la mia vita. La cerco sempre e non è mai finita. La cerco nei miei andri, della mia coscienza. Con essa combatto l'odio e l'indifferenza. Questa è la mia musica, questa è la mia vita. La cerco sempre e non è mai finita. La cerco nei miei andri, della mia coscienza. Con essa combatto l'odio e l'indifferenza. Ormai siamo rimasti io e te a dare voce al cuore a tutto l'amore che c'è. Io e te come dal principio, quando al momento del declino portassi l'equilibrio. Io e te contro il mondo intero, con un unico credo, a sputtanare il falso, lodando il vero. Io e te a metà sospesi tra cielo e inferno. Io e te a trovarci un senso. È così e come è stato e così sempre sarà. Sei la mia gioia, la speranza, la mia identità. Sei la mia età che scandisce nel tempo il mio maturamento. Sei la mia crescita e misuri il mio temperamento. Sei sentimento che non ha mai fine. E se ti mollo un attimo torno da te con un mazzo di rime. Sei la cornice del quadro che compongo, l'imperatrice che detta le leggi del mio mondo. Ogni minuto, ogni secondo sei il mio pensiero. E se sto muto e ti do ascolto vedo meno nero. E se ci credo possiamo sollevarci, restituendo schiaffi a chi ci ha preso a calci. E questa è la mia musica e questo sono io. Assieme a lei lo sai posso arrivare fino a Dio. Lontano dall'oblio, vicino al mio rap. E questa strofa è il mio ringraziamento per te. Questa è la mia musica, questa è la mia vita. La cerco sempre e non è mai finita. La cerco nei miei andri, della mia coscienza. Con essa combatto l'odio e l'indifferenza. Questa è la mia musica, questa è la mia vita. La cerco sempre e non è mai finita. La cerco nei miei andri, della mia coscienza. Con essa combatto l'odio e l'indifferenza.